Sura 64. At-Taghabun. Il reciproco inganno. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Glorifica Allah ciò che è nei cieli e sulla terra. Sua la sovranità, sua la lode. Egli è onnipotente. Egli è colui che vi ha creati. Fra di voi vi è chi non crede e chi crede. E Allah osserva quello che fate. Egli ha creato i cieli e la terra in tutta verità e vi ha plasmati in una forma armoniosa. Verso di Lui è il divenire. Egli conosce quel che è nei cieli e sulla terra e conosce quello che celate e quello che palesate. Allah ben conosce quello che c'è nei petti. Non vi è giunta notizia di coloro che furono miscredenti in passato? Gustarono le conseguenze della loro condotta e avranno doloroso castigo. E ciò in quanto vennero ad essi con le prove i loro messaggeri, ma dissero: «Sarà un uomo a guidarci?» Non credettero e voltarono le spalle. Ma Allah non ha bisogno di loro. Allah basta a se stesso ed è il degno di lode. Coloro che non credono affermano che non saranno affatto resuscitati. Di: invece sì, per il mio Signore, sarete resuscitati, quindi sarete informati di quel che avrete fatto. Ciò è facile per Allah. Credete dunque in Allah e nel suo messaggero e nella luce che abbiamo fatta scendere. Allah è ben informato a proposito di quello che fate. Il giorno in cui sarete riuniti per il giorno del raduno sarà il giorno del reciproco inganno. A chi avrà creduto in Allah e avrà compiuto il bene, egli cancellerà i peccati e lo introdurrà nei giardini dove scorrono i ruscelli, in cui rimarrà in perpetuo e per sempre. Ecco l'immenso successo. Coloro invece che non credono e tacciano di menzogne i nostri segni saranno i compagni del fuoco in cui rimarranno in perpetuo. Qual tristo avvenire! Nessuna sventura colpisce l'uomo senza il permesso di Allah. Allah guida il cuore di chi crede in Lui. Allah è l'onnisciente. Obbedite dunque ad Allah e obbedite al messaggero. Se poi volgerete le spalle, sappiate che al nostro messaggero incombe solo la trasmissione esplicita. Allah, non v'è Dio all'infuori di Lui. Confidino dunque in Allah i credenti. O voi che credete, nelle vostre spose e nei vostri figli c'è talvolta un nemico per voi. State in guardia. Se dimenticherete, lascerete cadere e perdonerete, in verità Allah è perdonatore, misericordioso. I vostri beni e i vostri figli non sono altro che tentazione, mentre presso Allah c'è ricompensa immensa. Temete Allah per quello che potete, ascoltate, obbedite e siate generosi. Ciò è un bene per voi stessi. Coloro che si saranno preservati dalla loro stessa avidità saranno quelli che prospereranno. Se fate ad Allah un prestito bello, egli ve lo raddoppierà e vi perdonerà. Allah è riconoscente, magnanimo, conoscitore dell'invisibile e del palese, l'eccelso, il saggio.